Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ebbene, oggi parleremo di due argomenti però che sono collegati tra di loro. Parleremo di Texturas, questo prodotto che è stato sequestrato un mesetto fa, quando dopo la trasmissione di Striscia la Notizia su Fornelli Roventi si era parlato appunto di chimica nel piatto e di conseguenza i NAS avevano fatto irruzione su un centinaio di ristoranti e avevano bloccato questo prodotto, di cui però poi non si è più saputo, cioè cosa è successo, si può rimettere in circolazione, non si può rimettere in circolazione, conteneva qualcosa di così di negativo per la salute dei consumatori. Insomma, è importante fare chiarezza. Oggi cercheremo di fare chiarezza sia con il tenente Dario Praturlon dei NAS, ma con tanti altri ospiti. Non solo, ma a seguito di questo, nei giorni scorsi è così trapelata una notizia che sembra qualcosa di più di una notizia, che la Comunità Europea stia pensando, un commissario della Comunità Europea stia pensando di varare un provvedimento che diciamo impone ai ristoratori vicino ad ogni piatto di elencare tutti i contenuti, tutti i prodotti che vengono utilizzati. Bene, voglio essere per così dire un po' sospettoso e devo dire chissà che non ci sia collegamento, non ci sia stato collegamento fra queste due cose, ma lo vedremo. Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, il telefono è aperto, chi vuole intervenire può farlo in qualsiasi momento, linee permettendo. Iniziamo questa trasmissione appunto con il tenente Dario Praturlon, tenente dei NAS, che appunto ha così curato, è stato tra i curatori dell'inchiesta su Texturas. Allora tenente, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci può fare il punto su questa inchiesta? Credo che sia terminata e credo che voi abbiate già, come posso dire, dato la vostra sentenza. Non siamo noi organo di sentenza, siamo organo investigativo e ispettivo. Diciamo che l'attività ha avuto degli ulteriori sviluppi, ma moderati rispetto a quello che era stato dato un mese, due fa. Quindi il riassunto dell'attività può essere reso contato parlando di circa 615 confezioni sequestrate dai NAS su tutto il territorio italiano, prodotti che erano essenzialmente additivi, spesso attuati comunque per motivi di etichettatura di tipo amministrativo, non per motivi strettamente sanitari. Quindi diciamo, se c'è qualche incongruenza, se c'è qualche difetto, lo è dal punto di vista amministrativo dell'etichettatura, è così? Sì, lo conferma? Sì, lo confermo, perché comunque questi sono prodotti additivi e gli additivi nel territorio italiano sono normati da una disciplina che è molto specifica e detta quali sono le condizioni di etichettatura e di utilizzo. In alcuni prodotti di questi, non tutti, c'era la mancanza di alcune diciture obbligatorie per legge, come le precauzioni d'uso, il tipo di utilizzo e alcuni codici richiesti dalla Comunità Europea. Ecco, però ho visto che diciamo che ora possono rientrare in commercio alcuni, cioè questi prodotti con un'etichettatura, con un'aggiunta di etichettatura. Sì. Ce ne vuole parlare? Se vengono sopperite le mancanze, le carenze che avevamo riscontrato nelle confezioni oggetto del sequestro, il prodotto comunque rientra nell'ambito della regolarità della legge che disciplina l'etichettatura e soprattutto quella che disciplina gli additivi, che è un decreto, è una normativa del 96. Se sì, poi il prodotto corrisponde a questi requisiti e non ci sono problematiche di tipo sanitario, cosa che sembra confermare l'analisi di questi prodotti, e non c'è un veto a questo punto di tipo legislativo alla distribuzione del prodotto. Senta, diciamo che quindi questi prodotti che contengono lecitina, agar agar e tanti altri usati in molti ristoranti italiani e nel mondo, diciamo che la gente può stare tranquilla quindi? Analisi di tipo chimico-fisico svolte attualmente dalla parte dell'Istituto Superiore di Sanità posso anticiparlo che non hanno dato regolarità per la salute del consumatore. Ci sono ulteriori approfondimenti per valutare se la presenza di possibili sostanze allergeniche anche a basso dosaggio potrebbero causare degli effetti che al momento comunque sembra non debbano esserci. Un altro discorso è quello della trasparenza poi per il consumatore. Questi comunque sono degli additivi che la parola stessa lo dice, vanno ad aggiungere e non devono essere parte costituente di un prodotto alimentare, ma devono essere delle sostanze che coadiuvano in modo da arricchire in sapore, in colore, in consistenza un prodotto alimentare e non devono comunque essere parte costituente essenziale di un alimento. Bene, rimanga con lui ancora qualche minuto, so che lei è in treno, speriamo di farvi. Sentiamo già un radioascoltatore da Bergamo che ci chiama Gianluca. Buongiorno Gianluca, veloce. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Sì, buongiorno. L'intervento mio è riguardo a queste sostanze e ritengo che alla fine l'estetica superi in realtà la sostanza di un piatto, nel senso che vengono utilizzate esclusivamente per dare una forma particolare, un colore particolare, una consistenza particolare che è nulla di naturale rispetto a un piatto. Quindi probabilmente tutti vogliono vendere la forma del piatto anziché la realtà, la vera sostanza del piatto con i suoi ingredienti, con i suoi prodotti. Bene. Naturali, genuini, eccetera. Grazie del suo intervento Gianluca. Abbiamo con noi Guido Bruzzo. Guido Bruzzo è diciamo colui che importa e distribuisce in Italia Texturas della società Selecta. Buongiorno Bruzzo. Buongiorno Davide. Lei ha sentito il nostro tenente Dario Praturlon? Ma io ho sentito e sono anche rassicurato, non avevo dubbi in merito. Bisogna però secondo me fare anche un po' di chiarezza su cosa sono questi prodotti che vengono definiti texturas. Non sono sicuramente dei coloranti. Quello di cui si occupano i fratelli Adrià è di modificare fra virgolette la struttura di delle salse, sostanzialmente di accompagnamento ai piatti, utilizzando gelificanti, addensanti eccetera. Secondo noi non c'è niente da temere, il prodotto è regolare e secondo noi lo è anche riguardo alla normativa 209, ci sono magari alcuni piccoli aspetti da valutare, grave è l'aggressione che è stata fatta alla professione, sembra quasi che i ristoranti non sappiano che cosa usano. Ecco Bruzzo, una cosa importante, diciamo che il tenente ha parlato appunto di mancanza così di informazioni, e diciamo che ecco, mancano queste informazioni, mancavano o erano in un'altra lingua? Ma guardi, quando si parla di etichetta si parla di qualche cosa che si vede prendendo in mano la confezione. Ora, il decreto 209 dice che le istruzioni d'uso sono necessarie qualora la mancanza possa non consentire un uso corretto, che devono essere riportate in lingua italiana o in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, che gli acquirenti possono essere informati anche in altro modo. Noi, prima di mettere in commercio questi prodotti, ci siamo cautelati all'interno delle confezioni, non solo esistono delle indicazioni d'uso, ma esistono addirittura dei ricettari, perché non si avvicinano a questi prodotti soltanto dei grandi chef, ma ci si avvicinano anche dei cuochi curiosi, i quali hanno più necessità di informazione. Eccoci di nuovo a parlare di Texturas, questo prodotto che era stato bloccato, ma parleremo anche, lo ricordo, parleremo anche della possibilità che nei menu ogni giorno i cuochi nei ristoranti debbano mettere tutti gli ingredienti che utilizzano. Sentiremo appunto molti cuochi cosa ne pensano. Tenente, buongiorno di nuovo. Ha qualcosa da aggiungere a quello che ha detto Guido Bruzzo? No, non niente da aggiungere, diciamo, abbiamo detto forse in due modi leggermente diversi le stesse cose. Bene, quindi, prego. Quindi, poi sì, dal punto di vista tecnico ispettivo non c'è niente da aggiungere, ma quello che io non posso andare a commentare è poi eventuali scelte normative da parte del legislatore comunitario. E per quanto riguarda la trasparenza della presentazione di alcune tipologie di piatti, di pietanze preparate con uso di additivi, questo rientra in un ambito che io assolutamente non posso Certo. Non posso dare commenti, come puoi immaginare, non spetta a me. Bene, la ringrazio, grazie e buon viaggio, perché so che è un viaggio. Saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Sentiamo Marco da Bologna, buongiorno radioascoltatore. Pronto? Sì, Marco, buongiorno, prego. Ah, buongiorno. Senta, signor Paolini, io invece punterei un po' l'attenzione sui prodotti che vengono usati nei ristoranti. Mi spiego, cioè, in asse è giusto che facciano analisi, controlli, eccetera, però a me risulta che in una città vicino alla mia, ovviamente non faccio il nome, ci sia un gran ristorante, Hotel 5 Stelle, dove il proprietario somministra prodotti addirittura scaduti, e glielo dico perché conosco benissimo, me lo riferisce uno che ci lavora dentro, una cosa oscena. Bene, Marco, grazie. 5 Stelle è un po', prego, difficile, perché al massimo si arriva a 3, ma comunque abbiamo capito il senso della sua domanda sui prodotti scaduti, ma credo che spesso si leggano così delle incursioni dei NAS anche recentemente che abbiano bloccato sulla grande distribuzione dei prodotti scaduti. Bene, sentiamo Paolo da Roma, buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti voi, auguri per queste trasmissioni, complimenti. Grazie. Io me ne intendo un po', perché ho fatto dal 1726 che sono commerciante della mia famiglia. Ah, sono bene. Anche sindacalista. È vecchio lei, quindi ha un po' di anni, insomma. No, sono 63, però mi sento forte. Bene. Non mi lasciano di morte perché parlo troppo. Bene Paolo, bene. Ecco, l'ospedale Bertini di Roma. Sì. Ecco, le dirò, ci sarà pure, quando succedono queste cose nel commercio, sarà pure qualche delinquente, no? Sì. O qualcuno malavveduto. Ma però in tutti i settori del commercio e dell'artigianato succede questo, che moltissime persone sono in buona fede e hanno sopravvivenza per poter tirare avanti, perché non c'è lavoro, perché la politica di un tempo fa, e lei lo ricorderà, dava licenza a cani e porci. Bene, arriviamo alla domanda, Paolo, ho capito la sua protesta, ma arriviamo alla domanda. La domanda è questa. Mi scusi, senti, non mi devo ragionare. Bene, allora ci richiami, guardi, aspettiamo la sua telefonata, Paolo. Grazie, sentiamo. Bene, abbiamo con noi Raffaele Alaimo del ristorante Le Calandre. Ultimamente nella sua newsletter che pubblica, che si chiama Il Calandrino, ho visto un testo abbastanza interessante. Mi voglio ricollegare alla domanda del radioascoltatore Marco che diceva di prodotti scaduti. E leggo su questa diciamo newsletter: leviamo la chimica dal piatto, ma leviamola tutta però. Leviamo anche il dado e il glutammato. Sì, quello che tutti teniamo in frigo. Già, anche questa è chimica. E cosa rimane? Cosa rimane, Raffaele? Ciao Davide, ciao a tutti. La nostra newsletter è il Calandrangolo. Ah, Calandrangolo, scusami, mi sono sbagliato col locale, insomma. Sì. Allora, ascolta un attimo. No, nella nostra newsletter, nell'ultimo numero, abbiamo fatto questo editoriale che dice di levare la chimica dal piatto. E facciamo riferimento a questo progetto di legge europeo che dice che i ristoranti dovrebbero citare quelli che sono gli ingredienti occulti, quelli che sono attualmente occulti dopo la polemica fatta da Striscia la Notizia. E io ho detto, sono più che d'accordo che vengano elencati nei ristoranti, che la gente venga informata, però partiamo mettendoli tutti, perché qui stanno facendo una polemica sui quei 98 famosi ristoranti a cui hanno frugato nelle dispense in NAS per togliere i prodotti texturas, ma tutti quelli che usano il dado e il glutammato devono sapere che cos'è. Il glutammato monosodico è un sale, è un amminoacido estratto teoricamente dai cereali e è un esaltatore di gusto e sapidità ed è il principale componente dei dadi e del brodo. È un acido, l'acido glutammico, che particolarmente concentrato nel tessuto nervoso e può dare danni al sistema nervoso. E la gente deve saperlo, perché poi fra l'altro i prodotti, i piatti preparati da ristoranti, quelli citati da Striscia la Notizia, non sono prodotti o piatti che le persone mangiano tutti i giorni e continuamente. Mentre anche i nostri bambini nelle mense scolastiche, eccetera, molte volte mangiano piatti che sono sempre contenenti glutammato e sta dando dei danni incredibili. Pare che sia la base di effetti di malattie degenerative, cardiovascolari, disturbi del comportamento. Se vuoi ti cito i testi e i libri. No, no, va bene, cioè, chiediamo solo la parola, quindi non c'è dubbio su questo. Bene, mi sembra. Lo tratteremo, lo approfondiremo, perché è è giusto, insomma, che si faccia un pochino di informazione anche su quelle che sono le cose più diffuse, non vengano criminalizzate solo alcuni elementi che sono per pochi, poi, fra l'altro. Bene, rimani con noi. Io voglio tornare velocissimamente, gli do un minuto solo a Guido Bruzzo, perché c'è un radioascoltatore che mette in dubbio che siamo in diretta e dice: cos'è la Texturas? Allora, in un minuto, Bruzzo, ci può spiegare? È un nome commerciale di una gamma di additivi alimentari che comprendono l'agar agar, l'alginato, la gomma xantato, la lecitina di soia, che hanno questo nome un po' esotico perché chi li confeziona, li mette in commercio è spagnolo, ma voglio dire, chiamando le cose con il loro nome, sono quelle che io ho detto: alginato, gomma xantato, lecitina di soia, metilcellulosa. Bene, io la ringrazio, Bruzzo. E a proposito, io voglio citare un libro che è appena uscito, che si chiama Cucina molecolare. Non vorrei tornare sul molecolare perché l'abbiamo già discusso un sacco di volte su questa trasmissione, di Rolf Caviezel, pubblicato da Biblioteca Culinaria, in cui sono spiegati un po' tutti questi prodotti che vengono utilizzati. Bene, voglio tornare per un'ultima battuta con Alaimo. Dunque, tu hai già fatto riferimento al discorso dei ristoratori che dovrebbero mettere, ma cosa facciamo? Cioè, arriveremo, diciamo, a delle bibbie, cioè uno andrà al ristorante e dovrà leggersi un'ora e mezzo prima tutto prima di ordinare. Questo è assurdo, assurdo. Però io dico, se esce questa legge, io dico, non facciamo questa legge solo per quei ristoranti che hanno utilizzato questi prodotti, sui quali io posso essere anche d'accordo, ma facciamola su tutto. Io dico, mettiamo in tavola chi fa il brodo con le verdure, con la carne, e chi lo fa con glutammato, perché preso in dosi massicce è gravemente dannoso alla salute, e nei bambini questa sensibilità è 4 volte superiore a quella di noi adulti. Bene, grazie a Raffaele Alaimo di queste precisazioni. Abbiamo con noi, la ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Abbiamo con noi l'avvocato Andrea Vitale, docente di diritto alimentare all'Università degli Studi di Milano, tra l'altro curatore anche del manuale di legislazione alimentare. Bene, io volevo chiedere all'avvocato Vitale, mi sembra che ci siano, diciamo, gli additivi siano regolamentati da un decreto ministeriale, mentre gli alimentari hanno tutt'altra diciamo legislazione. È corretto o è sbagliato questo che sto dicendo, avvocato? Buongiorno intanto e buongiorno agli ascoltatori. Sicuramente è corretto quello che lei oggi e quello che lei poc'anzi ha detto, nel senso che, grazie al cielo, nel nostro paese le armonizzazioni legislative e i regolamenti europei o le direttive, come nel caso di questo decreto ministeriale, sono sempre applicate con un altissimo standard, per cui in sostanza nel caso degli additivi alimentari è stata introdotta questa normativa che ha recepito un regolamento europeo che disciplina appunto tutte le disposizioni generali riguardanti i coloranti, gli edulcoranti, gli additivi di tipo alimentare. Per cui direi che all'interno di questa disposizione abbiamo visto che nel caso specifico si è voluto applicare in modo ultra che pedisseco la legislazione del decreto ministeriale, e pertanto l'avvertenza che vadano venduti principalmente o vadano venduti esclusivamente non al dettaglio, in modo da consentire sempre quel grandissimo rispetto, quel grandissimo controllo che esiste nel nostro paese. Quindi c'è un qualcosa di cautelativo, diciamo così? Assolutamente sì, ma ci tengo e colgo questa occasione della sua importante trasmissione perché devo sottolineare ancora una volta come in questo settore noi siamo i primi della classe, però poi dopo pochi lo dicono, nel senso che da noi i controlli da parte degli organi ufficiali, i controlli da parte degli organi di autocontrollo sono così elevati rispetto agli altri paesi comunitari che certamente se ne può andare molto molto fieri. Da noi il consumatore alimentare è posto al centro di una ragnatela legislativa e di un insieme di norme di grandissima tutela. Ho capito, allora mi permetta questa battuta: abbiamo uno straordinario impianto legislativo ma non abbiamo i controlli. Allora, abbiamo uno straordinario impianto legislativo, abbiamo i controlli, abbiamo gli autocontrolli, poi abbiamo ovviamente, come nel caso degli alimenti scaduti o come nel caso di quelle tossinfezioni che ricorrentemente, specie nel periodo estivo, abbiamo sulla stampa, abbiamo come dire sotto l'occhio, abbiamo delle normali discrepanze o delle normali come dire, certo, abbassamenti di livello, però anche i controlli, tra l'altro operati nel nostro paese dal nucleo di antisofisticazione, pertanto da un nucleo altamente specializzati, devo dire che sono di grandissima levatura. Tra l'altro i NAS collaborano anche in modo consultivo con chi distribuisce, vende e confeziona prodotti. Posso dire, concludendo, che in maniera assoluta da noi le tre regole di legislazione alimentare, cioè che l'alimento e il cibo deve sottostare a tre grandi pericoli, manipolazione, logistica e temperatura, viene prima di ogni cosa dagli operatori e poi da parte dei controlli ufficiali, molto molto molto molto molto bene utilizzato. Bene, la ringrazio avvocato, grazie, grazie a lei. Grazie. Di nuovo buongiorno cari gastronauti, ebbene parliamo di additivi chimici e parliamo anche di nuove norme che potrebbero arrivare per far sì che sui menu vengano così segnalati tutti i prodotti che vengono utilizzati dai cuochi. Ebbene, abbiamo già sentito diversi interventi, io ricordo il numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666, ma magari mi piacerebbe sentire l'intervento di un consumatore che cosa ne pensa di andare al ristorante e trovarsi 28-30 pagine da leggere sugli ingredienti, se si sente più garantito oppure se si sente così magari un po', per così dire, di dover rimanere a tavola per delle ore. Questa credo che sia, possa essere la scelta. Vabbè, sentiamo Ugo della provincia di Alessandria. Buongiorno Ugo. Ah, buongiorno. Senta, semplicemente una cosa. Siccome non è vietato indicare gli ingredienti nel menù, potrebbe essere già una buona iniziativa di chi non ha nulla da nascondere incominciare a metterli, a scriverli. Bene. In modo tale che potrebbe essere anche questo momento di crisi un elemento per rilanciare un po' il settore. Cade a fagiolo, caro Ugo, la sua interessante così proposta, perché abbiamo con noi Ezio Santin della Cassinetta di Lugagnano, ma in questo caso presidente delle Soste. Le Soste è un'associazione che raggruppa un centinaio, 60-70 tra i migliori ristoranti italiani. Buongiorno Ezio. Buongiorno Davide. Hai sentito questo radioascoltatore che dice perché non cominciate a mettere gli ingredienti? Tu cosa ne pensi? Sì, ma io dico una cosa. Già nell'esposizione dei piatti nella cucina moderna si mettono già tante cose che sono contenute nel piatto, magari si tralasciano le più banali o le più usuali, però io dico una cosa, se noi dovessimo inserire proprio in ogni piatto della carta tutti gli ingredienti, anche il minimo ingrediente che ne viene a far parte, perderebbe a mio avviso un po' di fascino anche la lettura di una carta di ristorante, perché diventerebbe quasi un elenco, non ha più niente di piacevole. Questo è il mio avviso. E poi io dico una cosa, l'etica della nostra professione fa sì che noi rispettiamo ma proprio in modo veramente severo l'esecuzione e la conservazione e l'ingrediente che deve entrare nel piatto, perché l'estetica va bene ma deve essere sempre seguita dall'etica. Bene, questo è il mio pensiero. Grazie Ezio Santin. Beh, mi sembra abbastanza importante anche questo ultimo punto. Sentiamo Paolo dalla provincia di Macerata, un radioascoltatore. Pronto, buongiorno. Io sono Paolo Mazzieri, sono qui da Civitanova. Sto facendo, sono a fare spesa a un ristorante qui a Civitanova. Poi vado su a cucinare. Beh, quello che voglio dire è questo. Innanzitutto la prima domanda che faccio è quanti nel ristorante si fanno la maionese, che è una banalità. ad esempio da me vengono i giovani, mi chiedono le patatine fritte, facciamo quelle fresche fatte a mano, cioè molti non se l'aspettano, prendono tutto prodotto congelato, no? Poi quanti fanno la maionese, no? Cioè la fanno in casa, perché se prendiamo un banale barattolo della maionese vediamo gli additivi che ci sono, quindi anche lì ci sono, ecco, quindi la prima provocazione. La seconda cosa che voglio dire, sono d'accordissimo con da Santin ad Alaimo, cioè che elencare tutte le cose nel ristorante, già nel mio ristorante vado a fare una tagliatella all'anatra con i sughi eccetera, è impossibile stare lì a scrivere tutto, quindi la prima chiaramente è impossibile. E poi voglio dire un'altra cosa, cioè Adrian Ferrari è stata fatta tutta una politica contro, io ho assistito a dei corsi, conosco anche dei giovani che ci hanno lavorato e posso dirvi che è stato detto tutto tranne quello di positivo, ad esempio macchine tipo il Gastrovac che riescono a friggere a 70 gradi e non a 170 o a 180, non abbiamo più il problema di spaccare la molecola dell'olio con radicali liberi, idrocarburi che fanno male, cioè nessuno l'ha detto, voglio dire disinformazione, ecco, cioè Striscia la Notizia ha parlato di, non so, sono entrati nel ristorante di Massimo Bottura, la Francescana, hanno parlato dell'aria di basilico, cioè andiamo ad analizzare come si fa l'aria di basilico, acqua, lecitina di soia, estratto di basilico o basilico centrifugato, cioè che cosa c'è di chimico lì? Che cosa c'è di chimico? Bene, io la ringrazio Paolo, credo che Ferran Adriano non abbia bisogno di difensori, visto così anche il manifesto di solidarietà che gli hanno fatto 800 cuochi a suo tempo spagnoli, quindi del suo paese sicuramente concorrenti, e quindi le sue provocazioni sulla maionese e su altro credo che siano, non siano provocazioni ma siano constatazioni, quindi è inutile aggiungere qualcosa. Io volevo proseguire, ho Davide Cassi che è il professore di chimica all'Università di Parma, non so se ci sente perché mi dicono che la linea sente benissimo. Buongiorno Davide. Ciao Davide, io ti sento benissimo. Speriamo, magari una cosa veloce. Perché tu che sei lo storico della gastronomia molecolare, lo ripeto, non della cucina, della gastronomia molecolare, perché la cucina molecolare viene sempre accostata alla chimica, secondo te? Guarda, la stessa parola molecolare richiama il chimico nel mondo scientifico. Poi c'è da dire che la cucina molecolare, la gastronomia molecolare potevano avere molti indirizzi possibili una volta che sono partite. Uno di questi è stato quello facile dell'utilizzo degli additivi commerciali, che si limita molto bene, come è già menzionato per Anna Adria, e che invece limita male e si vende questi additivi spesso, si rivolge al mercato di chi li usa male. Senti, dalla regia mi fanno segno purtroppo che ti devo interrompere perché si sente malissimo, la ricezione è bassa e non riusciamo, diciamo, a farti sentire bene. Mi spiace Davide, sarà la prossima volta, perché un discorso interessante, peccato. Continuiamo, numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Magari riproveremo per vedere se riusciamo a ottenere una ricezione migliore. Abbiamo con noi Luca Monica, Luca Monica rappresenta l'azienda Longino e Cardena, che è distributrice di prodotti di eccellenza nella ristorazione. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Davide. Luca, ma secondo te, tu lo sai benissimo, ci sono altri prodotti oltre Textura appunto che vengono distribuiti e che sono, diciamo, concorrenti e quindi ottengono lo stesso risultato di Textura? Il primo concorrente sono alimenti che si trovano, per dirti, liberamente in farmacia, quindi uno minimamente con una minima cognizione può senza ricetta acquistare dei prodotti per fare le medesime cose. Ci sono un sacco di altre aziende che poi producono dei prodotti che magari non sono così miscelati o specificati e li producono. Ma se mi consenti un secondo, volevo dire due cose circa l'intervento del ristoratore sulla maionese, sì, sul congelato. Sì. E ancora una volta bisogna stare molto attenti, secondo me, a muoversi in affermazioni che possono anche nel consumatore, secondo me, suscitare e rafforzare delle credenze popolari che magari non sono esatte, tipo sulla congelazione, sulla surgelazione, sull'abbattimento, come legalmente si chiama, si potrebbe veramente aprire un capitolo. Tantissimi sanno che per sanificare il pesce il Giappone insegna, si portano i prodotti a meno 20 o meno 50 e sono assolutamente più sani e se fatti bene non perdono nulla. Per quanto riguarda la maionese, abbiamo visto tantissimi ristoratori farla in casa e mandare decine e decine di persone all'ospedale, no? Certo. Perché comunque bisogna stare attenti anche a produrre in casa e avere di elementi per poter trasformare delle materie prime. Cioè, questo per dire che ai primi corsi di sommelier che feci mi rimase impressa una frase che era che contadino non sempre fa rimano con vino, no? Certo. Nel senso che non è neanche vero che tutto ciò che per partito preso possa sembrare naturale, cosa da non anteporre al termine chimico, perché non c'entra niente, no? La chimica non è che è una cosa chimica in quanto non naturale, questo è un po' secondo me la prima cosa da dire, no? La chimica trasforma delle cose, fa delle cose anche naturali, quindi non è detto che delle cose di sintesi poi possano fare meno male delle cose naturali o più male in funzione di come sono usate. Tra l'altro la maionese è il caso che viene portato sempre come esempio di cucina molecolare, quindi di gastronomia molecolare, per mi correggo. Esempio, non per so, esempio, mi viene quindi in mente la maionese di Pino Cuttaia, sì, per dirne una, che è una maionese fatta con uova di Bottarga, che è una cosa straordinaria, fatta con tutte le proprietà, diciamo, positive di un elemento molto più naturale, con meno condimento, grasso, olio che c'è, però viene fatta da uno che sinceramente quella materia prima, con le molecole, con le trasformazioni li conosce benissimo. Le conosce veramente bene, no? A differenza di quello che magari, ripeto, uno solo non sa che le uova a certe temperature, a certe proprietà possono essere un toccasana o una cosa pericolosissima. Una banale carbonara può trasformarsi in una cosa veramente molto pericolosa, no? Non parliamo del tiramisù. Certo, certo, lo so, ci sono molte credenze popolari, magari a settembre ci torneremo sul discorso dell'abbattimento, degli abbattitori e quindi del pesce crudo e di altre cose importanti. Grazie a Luca Monica, sentiamo Massimo da Roma, buongiorno Massimo. Buongiorno, due piccole cose. Allora, prima la lecitina di soia di cui parlava il ristoratore marchigiano, credo, non sì, c'è niente di più innaturale nella lecitina di soia, cioè non possiamo citare la lecitina di soia pensando che sia... Primo, non esiste soia a forza al mondo che non sia OGM, e secondo, come si estrae la lecitina? Seconda cosa, noi chiediamo all'industria di scrivere esattamente tutto quello che c'è all'interno dei prodotti, e invece al nostro ristoratore ci dobbiamo fidare a occhi chiusi. Non ne vedo il motivo. Cioè, o la regola vale per tutti o non vale per nessuno. Perché sono così resti a farlo? Ma guardi che ancora non, cioè, non è che si sono pronunciati, perché ancora questo regolamento sta per arrivare. Hanno messo le mani avanti e le dirò che io sono contrario ad aggiungere al menù su ogni ricetta, sono favorevole ad affiggere magari tutti gli ingredienti che vengono usati e magari anche i produttori, questo sì, ma aggiungere su ogni ricetta in un menù tutto, secondo me si va all'esagerazione, vuol dire rimanere per delle ore. Ma c'è sempre, io credo, un diritto del consumatore a sedersi a tavola, chiamare il cuoco se ci sono allergie, se ci sono intolleranze, e di chiedere esattamente cosa usa su quel piatto che uno sta per scegliere. Io credo che ci voglia anche del buon senso, non ci vogliono dei regolamenti e delle leggi. Io spero che magari le associazioni di ristoratori prendano in contropiede questo provvedimento e si facciano loro fautori di qualche proposta in questa direzione. Però fra poco magari lo sentiremo anche. Mario da Catanzaro, velocissimo. Buongiorno. Buongiorno. Più veloce di così non so. Dì. Non sono un chimico. Non mi interessa cosa c'è nel mangiare, vorrei soltanto andare a mangiare in un ristorante, mangiare bene, possibilmente pagare poco, ma che mi possa far bene o male quello che mangio non dipende da me, e non credo di essere l'unico in Italia a non discernere le varie componenti di un cibo. Certo, dipende da chi lo cucina, ovviamente dipende dal ristoratore e dall'etica e dalla professionalità del ristoratore. Su questo credo che non ci sia dubbi, quindi bisogna anche, così come si dire, fidelizzare e fidarsi del ristoratore a cui si va, magari facendogli anche delle domande e, perché no, mettendo il naso qualche volta magari dietro le quinte della cucina. Grazie. Eccoci di nuovo. Diciamo che questo finale di trasmissione è tutto basato sull'inserimento degli ingredienti sui menu. Ebbene, io ho detto così la mia idea e quello che penso, ma vedo che avevo chiesto il parere dei radioascoltatori, ho visto sono arrivati moltissimi sms, tutti sono favorevolissimi a questo, tutti dicono bene, il panettiere lo mette, su altri prodotti c'è scritto, perché non lo devono mettere i ristoranti. Questo è un po' il succo, diciamo, che di una decina o quindicina di sms che sono arrivati. Ma sentiamo Manuela da Roma, buongiorno Manuela. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Anch'io volevo dire la mia a proposito della lista e degli ingredienti, sì, da metterci, da indicare. Certo, la Bibbia non è divertente a tavola, però io, a differenza del precedente interlocutore, per esempio, non tanto vorrei pagare poco, quanto vorrei pagare il giusto, quindi anche tanto. questo mi garantisce. Per esempio, perché non aspettarsi, non so se obbligatoriamente o meno, ma non aspettarsi che nella lista, laddove gli ingredienti siano magari ingredienti che hanno la DOP, la DOC, non sia precisato se quella bufala è DOC, se quel pecorino di fossa lo è per davvero, di modo che magari quando vado a pagarlo una cifra stratosferica, però considero che questo è corretto. Io ho incontrato un paio di liste dove questo era precisato, il menù poi corrispondeva a prezzi elevati, ma non mi sono scandalizzata. D'accordo, quante Manuela, volte d'accordo. Troviamo pecorini che sono solo formaggi di pecora. D'accordo, Manuela, diciamo che molti lo mettono già. Però no, questo non è detto che un prodotto DOP, cioè i prodotti DOP sono sicuramente più garantiti, ma che ci siano prodotti che non sono né DOP né IGP né STG che abbiano delle qualità importanti e che quindi siano sicuramente buoni e siano ottimi. Quindi io su questo, cioè, DOP va bene, mettere DOP, IGP e il resto sì, però non dimentichiamo che ci sono anche prodotti che non hanno questa, diciamo, questa denominazione, che sono straordinari. Bene, sentiamo, abbiamo con noi Emanuele Scarello. Emanuele Scarello è il presidente dei Jeunes Restaurateurs d'Europe. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Voi avete preso posizione su questo fantomatico provvedimento che potrebbe arrivare? No, ancora no. Cosa ti posso dire? Ti posso dire che noi Jeunes Restaurateurs e noi come categoria proprio di chef veramente professionisti, cosa siamo? Noi siamo il terminale dell'eccellenza. Per esempio, proprio poc'anzi ascoltavo la signora che diceva di scrivere i prodotti che si usano anche se è una mozzarella IGP o un olio DOP. Per esempio io al mio ristorante, questo lo faccio già da molto tempo, nell'ultima pagina del menu scrivo, il nostro titolo è: i piatti di questo menu sarebbero così buoni senza puntini puntini, non so, gli ortaggi, la frutta dei contadini, oppure del negozio dove lo compro, il pesce del mio fornitore, e scrivo il nome, cioè inizio già a dichiarare, cioè una massima trasparenza. Ecco, questo è quello che dobbiamo dare proprio al nostro ospite, e quindi nessun problema a dover scrivere tutti gli ingredienti. Dopo, cosa ti posso dire, Davide? Ti posso dire, per esempio, che i colori sono in vendita sia per gli imbianchini sia per i veri artisti. Certo. Giusto. E quindi questo non è un problema. La preoccupazione nostra qual è poi? Che mi deve essere spiegato chiaramente a cosa serve, cioè perché non vorrei che questo omologasse il gusto. Bene, hai posto un interrogativo importante. Sentiamo Gianni dalla provincia di Biella. Buongiorno Gianni, veloce perché Buongiorno. Ho un sacco di telefonate in linea. D'accordo, senta, io volevo dire solo questo. Io sono favorevole a questa nuova normativa che sta per essere, speriamo, emanata, diciamo. E anche perché quando chiedo a un ristoratore i prodotti che ci sono in un piatto, non sempre mi vengono indicati, a volte mi vengono bofonchiati, e capisco che l'etica non è da tutti. In particolare a me interesserebbe sapere, e se non lo so ci rinuncio al consumo, sapere se consumo carne italiana. Quando chiedo, ma questa carne, questa bistecca, questo arrosto è di carne italiana? Ma sì, non lo prendo. Ecco, quindi io per quello e anche per altre cose che magari non digerisco personalmente in un sugo, tipo la panna, quanta panna c'è, cose del genere, sono favorevole, adesso non la faccio lunga, comunque mi piacerebbe molto e sarei molto contento se ci fosse una cosa Bene. Del genere. Andrei di più al ristorante. Grazie, grazie. Bene, abbiamo con noi Edison Mariva, che è direttore generale della FIPE. Buongiorno Edi. Buongiorno, ciao, ciao Davide. Allora, qual è la posizione della FIPE? È contraria ed è molto semplice. Noi abbiamo fatto l'elenco degli ingredienti di un piatto tipico italiano, lasagne alla bolognese. Ne dovremmo indicare 41. Per ciascun ingrediente dovremmo indicare anche l'origine e poi dovremmo anche indicare i valori nutrizionali, cioè quante calorie da anno si hanno con un piatto di lasagne. Ora, il diritto alla trasparenza è un diritto del consumatore in cui tutti crediamo e che va sicuramente salvaguardato. Però il rischio è questo: se per esempio preparo un ragù con la cipolla di Tropea, devo mettere che è di Tropea. Se la cipolla è di un'altra parte, se cambio la settimana dopo il tipo di ricetta ricetta, cambio qualche ingrediente, devo indicarlo. Allora, secondo noi questo diventa un adempimento pesante, un adempimento che però volontariamente sicuramente qualche ristoratore è in grado di fare, ma il pericolo è dietro l'angolo. È molto più semplice rispettare questa norma, e penso alle lasagne, da un'industria alimentare. E allora il consumatore deve valutare nel dare i suoi giudizi se deve spingere la ristorazione italiana a fornirsi di prodotti precucinati per poi rimetterli nel piatto con l'etichetta fatta dall'industriale, oppure deve continuare, magari migliorando, a fare la cucina di prodotto che sappiamo, a utilizzare gli ingredienti di origine controllate e a evidenziarli nel menù, come per esempio anche Scarello fa, che ho sentito un attimo fa, ma tanti altri fanno. Ecco, il problema è proprio questo, cioè dobbiamo uccidere la biodiversità, dobbiamo venderci all'industria o dobbiamo continuare ad essere buoni ristoratori, magari a migliorarci e ad essere più trasparenti in sala nei confronti del consumatore? Bene, rimani con noi, sentiamo Luigi dalla provincia di Milano. Buongiorno Luigi. Rapido. Sì, buongiorno Paolini, pronto? Sì, sì, rapido, rapido. Sì, mi sento benissimo, sì, no, parli. Volevo dire semplicemente questa cosa. Allora, bisognerebbe stare attenti quando si danno delle informazioni per radio, perché per esempio prima ho sentito parlare che la lecitina di sodio, soia sarebbe un OGM, il che non è ma vero. Chi l'ha detto questa? Ne sono strapieni. Ma dove l'ha sentita questa, scusi? Ma prima un ascoltatore ha detto che la lecitina di sodio è un OGM. Ma non è di sodio, scusi. Mi scusi, lecitina di soia, non di sodio. Di soia. Non è un OGM, i piselli ne sono pieni. E vorrei dire che ognuno di noi invece è un OGM, perché non corrisponde perfettamente né al padre né alla madre. Tutto sì. Qua. Benissimo, grazie, ma nessuno ha detto questo. Comunque, Adriano dalla provincia di Bergamo. Sì, buongiorno Paolini. Senta, io volevo dire una cosa semplicissima e velocissima. Mi sente? Sì, la sento benissimo, sì, parli. Nel senso che io, prima abbiamo sentito Scarello, che è lo chef del ristorante Agli Amici di provincia di Udine, mi pare. Sì. Quelli che si devono preoccupare più che altro di questa nuova norma, secondo me, sono i proprietari, cioè, di ristoranti di medio-basso livello, che spesso ci rifilano cibo congelato dandocelo per... e chissà quante altre cose, insomma. Bene, abbiamo capito il suo siluro, Adriano. Grazie. E vuole parlare ancora? No, grazie. Bene, sommariva, però una cosa ti chiedo. Ok a questa, diciamo, opposizione. C'è qualche proposta della FIPE, che è la Federazione Italiana? Ma sicuramente. Noi con settembre cominceremo un'azione di formazione, di sostegno ai ristoratori che lo vogliono fare, per spingere, magari attraverso il marchio Bollino Blu del Ministero della Salute, l'evidenza e la trasparenza volontaria, ma con intelligenza, insomma, con buon senso. E poi anche cercheremo di dargli tutti gli elementi per cominciare a pensare ai valori nutrizionali. Devo dire che si sappia che noi un anno fa abbiamo colto questa minaccia, ne abbiamo parlato con i colleghi spagnoli, greci, portoghesi e francesi, si sono subito allineati sulle nostre posizioni e siamo riusciti a portare tutta l'Europa della ristorazione, anche l'Irlanda del Nord, con tutto il rispetto, su questa posizione, cioè tutto il mondo della ristorazione europea è contrario a questa norma che introduce, diciamo, l'industria nella ristorazione. E quindi non siamo soli, e mi meraviglia ancora di sentire qualche consumatore che invece spinge verso una trasparenza fittizia. Sappiamo tutto di etichette, ma non sappiamo più cucinare, non sappiamo più gustare. Edi, guarda, ti devo dire che ora se ne sono arrivati 25-30 sms e sono tutti favorevoli. Diciamo, non so se sono consumatori o chi sono, perché non posso sapere chi manda questi sms. Purtroppo è così, non si rendono conto che degli effetti, è come se chiedessimo agli italiani se vogliono aumentare le tasse o ridurre. Bene. Ci diranno che si devono ridurre, però poi i servizi ce li scordiamo. Grazie Edi Sommariva. Emanuele Scarello, un minuto, gli esercizi ristoratori hanno in mente qualcosa? Noi siamo allineati ovviamente con Edi, facciamo parte, siamo ristoratori. L'ascoltatore di prima ha detto una cosa giusta, che nel segmento medio-basso questo è un problema attualissimo, verissimo questo. Perché? Perché la prima industria, pensa questo, la prima industria italiana è il turismo, quindi è chiaro che il nostro paese è pieno zeppo di posti dove si può mangiare, ma in questi posti qua non c'è il professionista che fa poi da mangiare. Ecco, io lancio un sasso, riconosciamo la categoria del professionista. Come c'è una grandissima differenza tra, e non me ne vogliono, tra un geometra e un architetto, ok? La stessa cosa ci deve essere tra uno chef e uno che fa da mangiare. Cioè, uno dopo tot anni diventa infermiere, dopo diventa dottore, dopo diventa professore. Ok, bene, lo dobbiamo fare, perché poi noi diamo, somministriamo alimenti. Bene. Qualcosa che un altro lo mette in bocca, lo ingoia, lo mangia. Starello, ti devo interrompere perché sono sul finale, però permettimi una battuta. Hai parlato di turismo, hai parlato di ristorazione. Abbiamo avuto un esempio a Roma che ha creato dei danni irreparabili in Giappone sul turismo. I dati che vengono dati dal Giappone rispetto a questa questo conto di un ristorante romano sono stati deleteri. Quindi sicuramente, come si dice, bisogna stare, cioè c'è categoria e categoria, giustamente, ma bisogna stare molto attenti e non generalizzare su questo. Grazie a Emanuele Scarello e Edison Mariva. Bene, torneremo la prossima settimana e domani alle ore 10 con la replica di questa trasmissione e poi ancora alle 12.15 con il Wine Bar del Gastronauta e ogni giorno con la pillola alle 18.30. Buon weekend da Davide Paolini.